Allora, l'opera che si vede qui sotto, di cui appunto si può insomma, leggere un dettaglio, anzi non leggere perché si tratta di un'opera asemica, è stata fatta nel 2008 in occasione della mia prima mostra asemica personale alla Camera Verde, e, qui a Roma. E si tratta di una mostra che ho potuto fare grazie ai pannelli che mi erano stati offerti dalla stessa Camera Verde, quindi da Andrea Semerano, che... per il disegno, insomma, per il lavoro su questi pannelli in particolare, perché poi io gli avevo anche dato altre cose mie, ma di più piccole dimensioni. Per questi pannelli molto grandi, appunto, mi aveva offerto i fogli e mi aveva lasciato in Camera Verde, su mia richiesta ovviamente, a fare una parte del lavoro che non avevo potuto completare, mentre lui, Andrea e Giuliano Mesa e altri amici andavano a cena. Al rientro trovano appunto i lavori in parte completati, poi non ricordo se una parte li avevo già completati prima o li avrei completati poi successivamente, oppure ero riuscito veramente a fare moltissimo in quel stretto arco di tempo in cui appunto insomma loro erano stati fuori. E Giuliano fu, devo dire, piuttosto colpito dai lavori, soprattutto alcuni. E in particolare di questo, di cui appunto qui si vede soltanto un dettaglio, e che poi compare sempre in una delle immagini che uso quando mi chiedono un'immagine mia, ci sto io con la mia bella faccia e dietro il senso chiuso, aperto della scrittura semica di questo lavoro. E Giuliano usava un'espressione che a me piacque subito molto, e che, di cui poi non ho più parlato se non poco fa in un messaggio personale a un amico. Cioè parlò di questo tipo di lavoro sulla scrittura semica come un lavoro su celle aperte, ecco, disse proprio così, insomma, mi piacciono queste celle aperte. L'idea appunto di un discorso legato al non senso della cella, ma anche al senso dell'apertura e all'inverso, perché c'è anche un senso della cella e un non senso dell'apertura, e quindi... Tutto è intrecciato in quel discorso di senso trattino non trattino senso che io sempre faccio, che riconduco sempre all'insegnamento di Emilio Verroni. Ecco, questo fatto mi ha sempre un po', diciamo, interessato. E proprio in questi giorni sto anche un po' sperimentando, ritrovando, perché non c'è niente di sperimentato prima che io non abbia risperimentato un po' per fatti miei. E anche divertendomi a rifare alcune esperienze. Questo appunto mi porta anche a un tipo di lavoro che è quello sulle scritture del labirinto, sulle scritture labirintine, che non sono soltanto delle scritture asemiche, ma sono delle scritture asemiche o parzialmente asemiche che si sovrappongono, si intrecciano e costruiscono appunto delle celle in parte chiuse, in parte aperte, o completamente chiuse o completamente aperte, dove appunto lo sguardo può un po' percorrere le varie virgole, le varie punteggiature del discorso del pennello, della penna o quel che sia, senza per questo chiudersi in un significato, ma senza per questo perdere il senso del lavoro. Parlando appunto in una call, in una chiamata ad un amico di questa cosa, mi è tornata alla mente questa definizione di celle aperte che appunto Giuliano aveva dato all'opera che qui si può vedere e che appunto è di quasi 20 anni fa, mentre ci sono altre cose più recenti che magari avranno altre occasioni di essere mostrate.